Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria sul fronte italiano, ancora l'incontro, sarà alle 18, intorno alle 18, tra il governo, ossia il ministro Fornero, e sindacati e Confindustria. Il tema è la riforma del mercato del lavoro, dopo le dichiarazioni di queste ultime settimane, che il governo comunque farà una riforma al di là dell'accordo con le parti sociali e, da quello che si è capito ieri con il ministro Fornero, forse anche al di là delle obiezioni di alcuni partiti. Lì c'è un po' di frizione col PD, ne parleremo fra pochi minuti, quando cercheremo di capire la prospettiva, o meglio come dovrebbe essere la riforma del mercato del lavoro vista da chi spesso viene additato come il diavolo del mercato del lavoro, e mi riferisco alle agenzie interinali, quelle che tra virgolette guadagnano collocando lavoratori precari. In realtà non è così, e da provocazione però c'è tutta. Poi parleremo della borsa. Allora, la borsa oggi è altalenante, come si dice in gergo. Perché? Perché sono arrivate le previsioni dell'Unione Europea a raffreddare i mercati. Ora, a mio avviso, si tratta di una scusa bella e buona, nel senso che ormai da due mesi diciamo che l'Europa sarà in recessione, buona parte dell'area euro sarà in recessione, Italia e Spagna, ma non solo. Oggi l'Unione Europea ha confermato questi dati, ha detto che complessivamente l'area euro farà un meno 0,3% nel 2012, con Grecia e Portogallo rispettivamente meno 4,4% e meno 3,3%, Italia meno 1,3%, Spagna meno 1%, Germania stagnante anch'essa, non in recessione ma stagnante, più 0,6%, Francia è sempre una sorpresa, ma in Francia tengono i consumi. Francia ha problemi sull'export, è meno competitiva di noi sulle esportazioni, tutti i dati sono concordi su questo, però riesce, con un welfare fatto meglio del nostro, e adesso potremo andare avanti per ore, ad avere un buon andamento dei consumi interni, la domanda interna. Ecco perché l'anno prossimo farà un più 0,4%, che è un buon dato, visto che la Germania, la locomotiva tedesca, farà più 0,6%. Sempre l'Unione Europea dice l'Italia comunque l'economia italiana si stabilizzerà, e quindi a quel punto non dico un segno di crescita vero e proprio, ma quantomeno non di calo, se lo spread italiano resterà a 370 punti. Ora noi siamo scesi a 346 punti, con la differenza tra quanto costa a noi indebitarsi rispetto a quanto non costi alla Germania. E adesso oggi siamo a 364 punti, e su questo insomma è un pizzico di ottimismo, di speranza, arriva da questa dichiarazione, devo dire già contenuta anche nel bollettino della Banca d'Italia, nel rapporto della Banca d'Italia, cioè se l'Italia manterrà uno spread intorno ai 350-360 punti, ecco che l'uscita dalla crisi arriverà prima. Perché questo? Perché costa meno alle imprese indebitarsi, le banche dovrebbero avere maggior gioco nel prestare soldi, e complessivamente lo spread che va a caricarsi sul costo del denaro peserà un po' meno. Questo è il motivo, e poi soprattutto pagheremo meno gli interessi sul nostro debito, che ammontano alla simpatica cifra di 70 miliardi di euro l'anno solo di interessi che paghiamo sul debito, come se uno che ha fatto un mutuo con la casa pagasse 70 miliardi diciamo all'anno solo di interesse sul mutuo, non del mutuo vero e proprio, solo della quota che riguarda, che va a far guadagnare la banca. Questo, dicevo, ha avuto un influsso sui mercati, non tutti. Francia invariata, Francoforte meno 0,70, Londra più 0,40, l'America più 0,40. Da noi i realizzi, quindi le vendite, si concentrano soprattutto sui titoli bancari, meno 6% Unicredit, meno 4,70 UBI, meno 3,70 Popolare Emilia Romagna, meno 3,60 Pop Milano, meno 3% Monte dei Paschi, meno 2,80% è il calo invece del Banco Popolare. Mediobanca perde il 2,45%, Intesa San Paolo meno 2,43%, e segnaliamo anche tra chi cede Fiat meno 4,50%. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le notizie in breve. Ancora, per quello che riguarda questo programma, ci occuperemo anche di liberalizzazioni oltre che del mercato del lavoro. Nella seconda ora del programma avremo nostro ospite il numero uno di Snam Rete Gas, che fa parte del pacchetto liberalizzazioni, perché il governo ha deciso di separarla dall'ENI. L'ENI ha ancora una quota di maggioranza assoluta al 52%. Oggi ha annunciato un accordo con la belga, il colosso belga Fluxys, per un'integrazione del gas a livello europeo, ma chiaramente parleremo di gas, di stoccaggio e del futuro di Snam Rete Gas. Oro in calo in Asia a 1772, calo si fa per dire, petrolio invece non ne vuol sapere, a $106.57 a New York. La Grecia fa male, la crisi greca fa male in primo luogo ai greci, ma fa male anche ai bilanci delle banche francesi, che sono più esposte ancora di quelle tedesche. Perché lo dico? Perché oggi sia Crédit Agricole che Dexia hanno chiuso con una perdita, hanno chiuso il bilancio del 2011 con 1 miliardo e 470 milioni di perdita, che è dovuta soprattutto nel caso di Crédit Agricole alla controllata ellenica Emporiki, che ha perso 2 miliardi e 3, e poi a delle svalutazioni, cioè nel momento in cui tu i prestiti che hai dato alla Grecia non ti tornano più indietro, perché l'haircut, cioè il taglio di capelli, è del 47%, è chiaro che tu queste cose non le hai più in bilancio al valore di prima, non so, 1 milione di euro, devi fare 530.000 euro, e quindi vai a perdere poi in bilancio. Tant'è che Crédit Agricole ha azzerato il dividendo per l'esercizio 2011 e ha comunque anche annunciato di avere dimezzato la sua esposizione sull'Italia, cioè quante obbligazioni, quanti BOT, BTP ha in portafoglio, da 8 miliardi e 700 milioni a 4 miliardi di euro. Sì, alcuni dicono non sei onesto, una dozzina di banche comandano le borse mondiali. Mamma mia, abbiamo fatto decine di puntate su questa cosa. Abbiamo fatto ascoltare Wall Street, Wall Street 2, Inside Job, Un chilometro da Wall Street. Cioè l'accusa allo strapotere di Wall Street, anche e soprattutto nei confronti dell'amministrazione americana e di quell'uomo molto timido che si chiama Timothy Geithner, che a nostro avviso lì tornerà a lavorare. Insomma, penso che sia anni che battiamo sul tema, non so cosa dobbiamo fare. Dexia, dicevo, altra banca francese, belga francese, che, su cui pesano le esposizioni sulla Grecia, rosso record, ma non solo, Dexia già stata salvata dal governo franco-belga, 11 miliardi e 600 milioni di euro di calo, ma anche Royal Bank of Scotland soffre per il debito greco, nel 2011 un rosso di 2 miliardi di sterline, e paga anche la Commerzbank, la seconda banca tedesca, una di quelle che erano più scricchiolanti prima dell'intervento di Mario Draghi. Pensate che l'utile netto è calato del 55% a 638 milioni di euro, sempre per via delle perdite sulla Grecia. Governo Monti battuto di nuovo sul milleproroghe, in aula, su un ordine del giorno presentato da Antonio Russo del PD, 257 sì e 213 no, e appunto sono arrivati il testo sul il governo era contrario, ma a favore hanno votato PD, Lega e Italia dei Valori, mentre contro, e quindi a favore del governo e contro l'emendamento, hanno votato PDL, FLI e UDC. E poi è battuto un'altra volta il governo su un ordine del giorno della Lega al decreto mille proroghe relativo al canone RAI. Il PIL dei primi tre mesi dell'anno va male, lo dice oggi il Centro Studi Confindustria, anche per colpa del maltempo. E però su questo, cioè alla luce delle previsioni sia di Confindustria sui primi tre mesi che dell'Unione Europea sull'intero anno, il Presidente del Consiglio Mario Monti ha escluso una manovra correttiva, quindi un'ulteriore manovra finanziaria. l'obiettivo che confermiamo, ripeto, che confermiamo del bilancio in pareggio per il 2013, occorre una nuova manovra alla luce di queste previsioni sul PIL? No. Perché? Perché nel pacchetto adottato in dicembre, noto come Salva Italia, abbiamo tenuto conto di una previsione molto prudenziale per quanto riguardava l'andamento del prodotto interno lordo, perché in modo molto prudenziale avevamo ipotizzato tassi di interesse che sarebbero restati al livello dello scorso novembre, mentre sono considerevolmente scesi, e infine perché, pur avendo introdotto strumenti vigorosi e che stanno dando risultati per accrescere l'efficacia della lotta all'evasione fiscale, non avevamo contabilizzato neppure un euro di proventi da questa lotta nel bilancio. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, Monti ha detto non abbiamo mai previsto nella nostra manovra l'extra gettito dell'evasione, quindi insomma c'è un certo margine. Invece invito l'associazione delle banche italiane, l'ABI, a mettersi d'accordo con Confindustria. Spiego subito perché. Oggi il centro studi Confindustria, nel rapporto che citavamo con Congiuntura Flash, ha detto il credit crunch, ossia il giro di vite sul credito, la ristrettezza del credito, il fatto che le banche non stiano prestando soldi o li prestano a tassi alti o chiedono rientri, modificano il tipo di prestito, si è accentuato sul finire del 2011 e resta uno dei principali fattori di freno per le imprese italiane, ne penalizza la competitività. Continua il centro studi Confindustria, la restrizione finanziaria in Italia è resa più grave dall'allungamento dei tempi di pagamento sia del settore pubblico, 180 giorni, che dei privati. Poco dopo invece è uscita l'ABI dicendo attenzione, lo stock di credito, cioè l'ammontare del nostro credito erogato all'economia, nonostante le difficoltà, sta aumentando. Le banche italiane, ha quindi continuato il direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini, continuano a porsi come modello virtuoso. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? No, lo dico perché insomma le imprese, gli industriali denunciano una restrizione sul credito, l'ABI dice continuiamo a aumentare lo stock di credito e siamo un modello virtuoso. Bah. Una buona notizia invece arriva dal Made in Italy, di nuovo il settore agroalimentare è volato, l'export alimentare, già commentammo due giorni fa il record dell'export del vino, 4 miliardi, e più 13% il vino infatti, ma complessivamente l'intero settore agroalimentare più 8,5%, quindi tutta domanda estera anche per il settore agroalimentare, in Italia i consumi sono fermi, sono stagnanti, ma... ripeto, complimenti, brave alle aziende del settore, perché un più 8,5% non è poca cosa. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Ah, la crisi! Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone, chissà che la crisi finirà. Allora, dove vanno i super ricchi cinesi che noi ci auguriamo possano venire a vivere in Europa, visto che il futuro dell'Europa è anche un futuro svizzero, the best place where to live, il miglior posto dove vivere, welfare, ospedali, natura, monumenti e quant'altro, moda, gusto, forse l'Europa dovrebbe indirizzarsi anche in questo mondo, con questo obiettivo, mentre i super ricchi cinesi in questo momento vanno verso gli Stati Uniti. Le richieste di visti per l'America da parte di milionari cinesi si sono impennate, svelando appunto la crescente volontà di emigrare in Occidente. Bank of China e Hurun Report hanno pubblicato uno studio per cui 960.000 cinesi con beni superiori su 960.000 cinesi con beni superiori a $1.600.000, ben il 60% sta pensando di emigrare negli Stati Uniti. Nel 2011 il governo federale ha ricevuto 3.000 richieste di visti EB5, quelli che riguardano anche interi nuclei familiari, e che vengono concessi solo a chi investe in America almeno $1 milione o crea 10 posti di lavoro oppure va a destinare 500.000 alle aree rurali. Pensate che nel 2007 le richieste di questi visti da miliardari erano inesistenti, 2 anni fa erano 780, l'anno scorso praticamente a nuovo record 3.000 richieste. Un ricone avaro e vecchio dice ahimè così non va, vedo nero nello specchio chissà come finirà, oh la crisi, ma cos'è questa crisi, ma cos'è questa crisi, cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Allora, la RAI, non c'è pace per la RAI, Sanremo, la maternità per i lavoratori precari e poi, come abbiamo commentato, questa idea balzana del canone che va pagato a chi ha il computer. Oggi l'ex parlamentare di AN e consigliere RAI, Guglielmo Rositani, insomma, ha speso i soldi della RAI, stando alle ricevute della sua carta di credito aziendale, spedite al quotidiano Repubblica in busta anonima. Vedete che sta iniziando la delazione. Bene. Allora, hotel di lusso, ristoranti con conti da 750 euro, gioielli e profumi, che giustamente la carta di credito aziendale serve a questo, no? Alle amanti. Faccio per dire, o alle mogli, o a tutte e due, spero non assieme. Il dettaglio della spesa. Allora, complimenti a Guglielmo Rositani. Le spese effettuate tutte a Rieti, dove vive il consigliere, quindi neanche per così rappresentanza aziendale. Hotel, ristorante da Checco al Calice d'Oro, 420 euro. E che se magna? Ristorante La Foresta, 500 euro per 10 pasti a prezzo fisso. Vabbè, ha offerto un po' di amici. E a seguire il gioielliere Passi, 300 euro, la gioielleria Cesare Amici, 400 euro, la gioielleria Cesare Amici, di nuovo, 380 euro, la profumeria Michele Cellurale, 150 euro, Grassi Sport, 310 euro, Letizia Sass, intima biancheria per la casa, immagino non per il consigliere Guglielmo Rositani, almeno l'intimo, non so, il mondo è bello perché vario, altri 110 euro... Tutte queste spese tra il 9 aprile e il 21 agosto 2011. È vero, guadagna poco il consigliere di amministrazione della RAI, solo 98.000 euro lordi, però altri 28.000 euro di extra. E poi la carta di credito aziendale, che ha un tetto massimo di 10.000 euro l'anno. La carta di credito aziendale serve per le spese relative alla propria funzione. Sei fuori a cena, è un ospite, va bene. Devi spostarti con un aereo, va bene. Ma la profumeria, la gioielleria e Grassi Sport, beh, non so, Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi, oh, ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Allora, chiusa con questa cosa del consigliere Rositani, Guglielmo Rositani, complimenti. Se vuole ci chiami in diretta, se tutte queste spese erano giustificate chiediamo subito venia. Ma dicevo, parliamo adesso della trattativa sul mercato del lavoro, l'incontro alle 18 tra governo e sindacati e Confindustria, anche Rete Imprese per l'Italia, che ha un documento diverso da quello di Confindustria. Giornata cruciale, quindi. E quindi staremo a vedere cosa uscirà da questo nuovo incontro alle 18, le varie dichiarazioni di questi giorni, sia del Presidente del Consiglio Mario Monti che del Ministro Fornero, in sostanza riassumibili come la riforma la faremo comunque anche senza l'accordo con le parti sociali, e poi un po' di giallo sulle dichiarazioni del Ministro Fornero, anche senza l'accordo di tutti i partiti, lì c'è più tensione col PD e il tema si chiama articolo 18. Nel frattempo, purtroppo, prosegue il deterioramento del mercato del lavoro italiano, lo ha rivelato oggi la Confindustria nel suo rapporto flash sulla congiuntura. Le tendenze negative, ahimè, sull'occupazione sono confermate nei prossimi tre mesi, sia dalle attese rilevate dall'indagine ISTAT presso le imprese che manifatturiere che le imprese dei servizi. L'ultimo dato a disposizione è quello che riguarda la disoccupazione di dicembre all'8,9%, ai massimi dal 2004, però non è un mistero che se la nostra disoccupazione in media è in linea con quella europea, certo non tiene conto della cassa integrazione, ma insomma la media europea è 10,4%, dove noi siamo peggio della media europea è sul fronte giovani. Al 31% la disoccupazione giovanile, il 21% è la media dell'area euro, quindi siamo 10 punti sopra la media europea. Voi potrete dire, già vedo alcuni commenti al 349-238-6666, che c'è il lavoro nero soprattutto al sud, però insomma questi sono i dati ufficiali. Ci batte solo la Spagna col 48%, ma la Spagna una riforma del mercato del lavoro l'ha appena fatta, rendendo più facili, diciamo, i licenziamenti da un certo punto di vista, con una minore retribuzione in termini di giorni o mesi che devi dare al lavoratore, però caricandoli anche alle imprese in modo da non invogliare il licenziamento, a meno che non sia dovuto a motivi produttivi, disciplinari interni. Ma dicevo, noi siamo al 31%, pensate che in Germania non si arriva all'8%, e poi abbiamo il record, ahimè, tra i paesi dell'Unione Europea dei cosiddetti NEET, Not in Education, Employment or Training, quindi chi non sta studiando, chi non lavora e né chi sta facendo formazione. Sono 2 milioni i giovani italiani tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. Questo è, ripeto, il dato più alto a livello europeo. Ultima certezza, anche se una certezza che non vorremmo avere, è che questa crisi la stiano pagando anche e soprattutto i giovani. Il dato complessivo è: tra il 2007 e il 2010 il numero dei giovani occupati è sceso di 980.000 unità, cioè 980.000 giovani occupati in meno, mentre nella fascia 45-54 anni l'occupazione è aumentata del 7%. Sappiamo che c'è un problema anche lì, perché quando viene espulso dal mondo del lavoro a 55 anni è difficilissimo reinserirsi, però il dato è questo, cioè quasi 1 milione di lavoratori giovani in meno dal 2007 al 2010, mentre un 7% di lavoratori adulti dai 45 ai 54 anni in più. Ora, noi sentiamo spesso le voci dei sindacati, della Confindustria, cioè delle cosiddette parti sociali che stanno incontrando il governo. Oggi vorrei, diciamo, virare leggermente, e ringrazio per averci raggiunto in collegamento l'amministratore delegato di G-Group, Stefano Colli-Lanzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Voi siete la prima multinazionale italiana del lavoro, nel senso che il gruppo è un gruppo presente in oltre 20 paesi, fate quello che si chiamerebbe, utilizzate il lavoro interinale, cioè fate da intermediazione per contratti di questo tipo, lavoro temporaneo, staff leasing, outplacement, e fate anche formazione. Dicevo, presenti in 20 paesi, tra cui Spagna, Francia, Germania, Polonia, Gran Bretagna, Argentina, Brasile, India, Cina, Romania. E un gruppo G-Group è un gruppo francese di proprietà Générale Industrielle. Lei è anche professore di economia aziendale alla Cattolica di Milano e vicepresidente di Assolavoro, e quindi dell'associazione che riunisce le agenzie per il lavoro che operano in Italia. Non vi hanno mai chiamato al tavolo con il ministro Fornero? Guardi, ci stanno chiamando proprio in questi minuti, no? Cioè, ora. Penso che raggiungeremo il tavolo settimana prossima, e questa è una grandissima novità, perché Assolavoro, che raggruppa le agenzie per il lavoro, non ha effettivamente né migliaia di aziende come associate, né milioni di lavoratori come hanno Confindustria o i sindacati nazionali, ma ha un punto di vista e una visione del mercato del lavoro più unica che rara, cioè nel senso che riesce ad avere davvero una visione a 360 gradi del mercato del lavoro, occupandosi di aziende che ne fanno parte, come appunto lei diceva, dei servizi, no? Che regolano il rapporto di lavoro, o che supportano il rapporto di lavoro in entrata, in uscita o durante la vita utile delle persone in azienda. Ecco, questo, questo punto di vista può essere molto utile in questa fase in cui pensiamo molto importante non solo scontrarsi, ma estrarre soluzioni win-win, diciamo. Cioè, che facciano vincere tutti e due, e cioè buone per tutti e due. Senta, chi dice che voi siete in sostanza... Voi fate i soldi con la precarizzazione del lavoro, cioè se vi fossero i contratti di una volta voi non esistereste, cosa risponde? Ma dico che proprio innanzitutto noi facciamo servizi al lavoro, facciamo servizi di supporto al lavoro temporaneo, ma anche alle assunzioni dirette, facciamo ricerca e selezione, facciamo formazione eccetera, quindi il ruolo delle agenzie è ben più ampio rispetto anche alla semplice attività di lavoro temporaneo, però proprio in questa fase in cui si sta discutendo di buona e cattiva flessibilità sta emergendo con grandissima chiarezza che proprio il lavoro temporaneo gestito attraverso le agenzie, sia per la sua rispetto dei minimi retributivi, contrattuali, contributivi, sia per il preziosissimo ruolo del terzo partner nel rapporto tra lavoratore e impresa, nella gestione dell'employability della persona, permette di pensare alla flessibilità con l'aggiunta della sicurezza forte del lavoratore e non viceversa porre flessibilità e sicurezza in condizioni di trade-off. Cioè voi, per farla capire a tutti, rivendicate quale ruolo, visto che vi occupate di lavoro, chiamiamolo così, interinale, lavoro temporaneo? Ma allora, se parliamo di flessibilità, rivendichiamo, cioè pensiamo che il lavoro temporaneo gestito attraverso agenzie per il lavoro possa essere la forma migliore da incentivare, da spingere, per far sì che la flessibilità necessaria al sistema, al mercato del lavoro, possa tenere insieme la sicurezza. Questo lo dico non solo in confronto alle forme cosiddette di cattiva flessibilità, come il lavoro a progetto, le false partite IVA, il lavoro in cooperativa, gli appalti, dove si unisce la flessibilità all'assoluto non rispetto dei minimi retributivi, dei minimi contributivi, degli istituti contrattuali minimi normalmente previsti per i lavoratori dipendenti, soprattutto di fascia bassa. Ma intendo anche tutta quell'attività di supporto alla persona che avendo un contratto a breve potrebbe non ricevere dalle aziende anche che assumono a tempo determinato. Quando una persona viene assunta per 3 mesi per fare un certo tipo di lavoro da un'azienda, difficilmente questa azienda investe sulla persona perché ha bisogno di utilizzarne le prestazioni. Noi invece siamo in grado di investire sulla persona ricollocandola n volte magari su diversi clienti, quindi di seguire lo sviluppo professionale. Questo è fondamentale. Cioè voi seguite quello che è il percorso di questa persona, il contratto lo si fa sempre con voi, giusto? Non con l'azienda? La persona fa il contratto con noi e l'azienda fa il contratto con noi. Allora, adesso abbiamo ammesso la pubblicità, poi vorrei capire, visto che il ministro vi ha convocato, che cosa proporrete dal punto di vista di chi appunto gestisce i lavoratori interinali? Ho detto un po' in maniera provocatoria, fai soldi con la precarietà, ma insomma abbiamo capito cosa fate. Le vostre proposte dopo il metodo e la pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per sentire qual è la proposta che arriva da chi lavora con il collocamento di lavoro, quindi le agenzie che si occupano di lavoro interinale. C'è un bel sms, secondo me, al 349-238-6666, sogno una classe politica interinale, e dovrebbe essere così in democrazia, uno sta e poi cambia, no? Invece qua abbiamo la classe politica delle volte col posto fisso. Va bene, allora, dottor Colli Lanzi, amministratore delegato di G Group, ci ha spiegato quello che fate, e quindi voi seguite il lavoratore e cercate anche di formarlo, mentre la società o l'impresa che ce l'ha per 3 mesi poi si dimentica di lui. Però una cosa possiamo dirla, contro anche l'obiettivo di Marco Biagi, di cui fra pochi giorni ricordiamo l'omicidio, cioè qui c'è stata una precarizzazione del mondo del lavoro per i giovani, è inutile girarci attorno, forse su questo che il ministro Fornero cerca di trovare una maggiore omogeneità. Sono perfettamente d'accordo, tra l'altro sono io il primo a promuovere, no, il concetto fondamentale che noi dobbiamo ridare centralità al contratto a tempo indeterminato, Cioè io penso che la vera validità di tutta questa discussione importantissima che si sta facendo sull'articolo 18 e quindi sulla possibilità di togliere l'inamovibilità dal contratto a tempo indeterminato sia fondamentale innanzitutto per ridare centralità al contratto a tempo indeterminato, perché si è creato un sistema assolutamente dualistico tra chi è dentro il mercato ed è protetto dall'attuale contratto a tempo indeterminato troppo rigido e chi è fuori, che in questo momento viene gestito, ahimè, solo in pochissima parte attraverso contratti di somministrazione e in grandissima parte attraverso contratti precarizzanti che sono in eccesso come numero, in eccesso come durata e spesso totalmente irrispettosi delle tutele minime che ogni lavoratore... Quindi lei dice se ci fosse, se ho ben capito la sua analisi, se non ci fosse l'articolo 18 o fosse diverso, cioè solo per i casi di discriminazioni palesi nei confronti del dipendente, si potrebbe utilizzare di più l'assunzione a tempo indeterminato, che in questo momento spaventa le imprese, le società, perché prevede anche la inamovibilità. Ho capito bene? Cioè se leviamo la inamovibilità si può tornare a fare più contratti a tempo indeterminato? Assolutamente, io sono dell'idea che togliendo l'inamovibilità torni ad essere centrale il contratto a tempo indeterminato, che a questo punto l'apprendistato possa essere rappresentato come il contratto di inserimento importante per avere anche un risparmio di costo e questa forma di formazione fondamentale anche per introdurre persone giovani al lavoro e che le forme di flessibilità più che essere ridotte dovrebbero essere riequilibrate, cioè bisogna dare centralità sulle forme di flessibilità di entrata alla somministrazione che già oggi costa più del minimo retributivo del lavoro a tempo indeterminato e che permetta al lavoratore di avere non solo tutte le sue tutele, ma il supporto dell'agenzia in quella parte, diciamo, scoperta che altrimenti ci sarebbe anche nel rapporto con l'azienda stessa. Allora, aumentare il costo del tempo determinato e riportare ai minimi retributivi, contributivi, degli studi contrattuali tutte le altre forme che in questo momento vengono utilizzate per abbattere in modo improprio il costo del lavoro. Allora, faccia capire anche me. Lei dice, intanto una precisazione, io mi auguro che lei abbia ragione, nel senso mi auguro che se si rende meno rigida l'assunzione, quindi articolo 18, e si dà più possibilità, e uno sa che quando ti assume non è per tutta la vita, che se anche... diciamo, se un lavoratore è scarso, ti assenti, sei in malattia, fai quello che vuoi, poi non è che ogni volta il pretore ti reintegra, io sono obbligato a tenerti in azienda. Mi auguro che lei abbia ragione, perché nel passato si diceva vedrete, il lavoro più flessibile porterà a un aumento dell'occupazione e poi l'azienda lo assumerà. Abbiamo visto che purtroppo in molti casi le imprese e le aziende non ti assumono, ti tengono precario, per cui io mi auguro che lei abbia ragione. Detto ciò, può riassumermi che cosa proporrete voi al ministro Fornero in maniera molto, molto semplice come riforma del mercato? Beh, noi siamo favorevoli alla riforma dell'articolo 18, ma questo poi riguarda noi fino a un certo punto. Noi porteremo come istanze, prima di tutto, di riportare tutte le forme spurie di flessibilità in entrata ad un livello di minimo retributivo, contributivo di istituti contrattuali, parlo di ferie, TFR, tredicesimo, quattordicesimo, lei dice, staff a leasing, parità del lavoro dipendente. Staff leasing, outplacement... No. Lavoro a progetto, partite IVA. Mi faccio degli esempi concreti così capisco anch'io. Sì, il lavoro in cooperativa, l'appalto, l'associazione in partecipazione sono tutte forme lecite, ma devono recepire un minimo retributivo, contributivo di istituti contrattuali parificato a quello del lavoro dipendente. Cioè devono avere dei versamenti di contributi, devono avere anche un minimo di ferie garantite, delle tutele nel caso di maternità e quant'altro, cioè questo stiamo parlando? Esatto, devono avere lo stesso retribuzione e contribuzione. A questo punto, se poi le persone preferiscono essere autonomi rispetto a dipendenti, facciano un po' quello che vogliono, ma le aziende lo stesso, si troveranno un accordo, ma non bisogna confondere il tipo di contratto e l'utilità che può avere con il suo costo. Se esistono dei minimi retributivi e dei minimi contributivi che vengono ritenuti come elementi di civiltà, ho capito. Devono essere rispettati tutti, da qualunque forma contrattuale. Per cui io avrò un minimo contributivo anche se sono partita IVA, avrò un minimo di ferie garantite anche la partita IVA, cioè poi deciderà il lavoratore, l'impresa, se fare partita IVA, se fare cooperativa, se fare che cosa, o contratto a progetto. Ma lei dice comunque non può diventare un escamotage per un lavoro senza garanzie, senza diritti. La seconda cosa che noi chiediamo è che il lavoro a tempo determinato, no, costi di più di adesso e si faccia carico di un aspetto di contribuzione del welfare della persona che viene lasciata a casa, così come avviene già nel caso della somministrazione, perché oggi c'è un vantaggio improprio del lavoro a tempo determinato rispetto al lavoro in somministrazione. Cioè rispetto al lavoro che trovate voi, per far capire tutti. Esatto, che nasce dalla concezione errata che sia più tutelato il lavoratore che viene assunto direttamente dall'azienda a tempo determinato che non quello che viene assunto attraverso l'agenzia. Oggi noi vogliamo attaccare questo principio. È più tutelato un lavoratore a termine gestito attraverso l'agenzia, perché questo lavoratore avrà nell'agenzia un partner ulteriore rispetto a quello che potrebbe avere se assunto direttamente dall'azienda. Da questo punto di vista chiederemo, no, che vengano rimosse, quindi questo a costo zero, no, ma per incentivare l'utilizzo della somministrazione come strumento di flessibilità, che venga rimosso il vincolo causale, che è una cosa un po' tecnica, ma che sta determinando complicazioni a livello contrattuali e poi a livello di cause legali che si determinano a valle, no? Provvedimento che comporterebbe costo zero per tutto il sistema e solo vantaggi dal punto di vista e dell'incentivazione all'uso dello strumento e dei minori costi che avremmo tutti quanti nella gestione di meno cause di lavoro, no? Meno complicazioni. Però voi dite non ci può essere, io su questo aspetto devo dire che mi sfugge un po', ma voi dite, cambierà qualcosa nella vostra proposta anche per il lavoro a tempo determinato o solo per voi? No, solo per noi, per voi, solo per noi, al limite, no? Da questo punto di vista siamo favorevoli anche che venga fatto per il tempo determinato, se questo viene ritenuto opportuno, perché riteniamo che la causale sia un elemento di complicazione che costa di più a tutti e che non tutela nessuno. Mm-hmm. Grazie comunque all'amministratore delegato di G Group, Stefano Colilanzi. Grazie a lei. Vedo moltissimi messaggi sul tema del precariato, non possiamo. Ci sono due cose oggettivamente giuste. Da un lato, l'articolo 18 è sicuramente qualcosa che va rivisto, ma non pensiamo che da lì arrivi poi il botto dell'occupazione, non lo dice nemmeno la Confindustria. In effetti non è che le aziende con meno di 15 dipendenti assumono così tanto a tempo indeterminato perché non hanno l'articolo 18. E dall'altra, attenzione, avete ragione a mio avviso anche in questi casi, la formazione poi va fatta veramente, abbiamo cercato di chiarirlo anche con il dottor Colilanzi, da più parti, nord e anche sud, si sono avuti scandali di soldi utilizzati per finti corsi di formazione. Comunque dai, traffico, sì, c'è anche una battuta che dice attenzione, senza l'articolo 18 il tempo indeterminato che tempo indeterminato è? No, non è esattamente così, è una forzatura. Traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, no, non possiamo continuare sul mercato del lavoro, vi torneremo, tanto il governo ha detto che entro marzo la riforma la vuole fare in un modo o nell'altro, quindi il tema resterà. Ci sono anche altri elementi, avete ragione sui tempi biblici della giustizia, sulla giustizia civile, ci sono tantissime altre cause per cui è difficile fare impresa in questo paese. Vi prego, non concentriamoci solo sull'articolo 18, che è un elemento, ma insomma la giustizia civile è più veloce, certezza del diritto, insomma tantissime cose. Su, la criminalità organizzata dal sud, ecco, non usiamo l'articolo 18 come il problema e la causa di tutti i mali. La borsa... Poche novità oggi su Fondiaria Sai, invece qualche cosa ce l'abbiamo su Unicredit. Ciao Condine, buonasera, Radio Corri sulle 24 ore. Ciao, buonasera a voi. Fondiaria Sai la facciamo dopo, partiamo da Unicredit, meno 6,20, UbiBanca meno 5,14, Popolare Emilia Romagna meno 4,11, Banco Popolare meno 3,5, Pop Milano meno 3,30 come Monte dei Paschi, Intesa San Paolo meno 2,20, l'indice italiano complessivamente ha perso l'1,5%, banche. Sì, l'indice italiano purtroppo, insomma, non so se si possa dire così, comunque ha molte banche nel paniere principale e quindi ovviamente in una giornata come oggi, in cui il comparto del credito ha pagato dazio in Europa, insomma, ha perso molto più di altri, perché il FTSE MIB ha lasciato sul terreno 1,5 punti, mentre gli altri indici hanno chiuso praticamente pari o poco sotto la parità. Cos'è a spingere a ribasso le banche? Fondamentalmente i nuovi timori su una recessione in Europa, timori che poi in realtà insomma, non, la recessione c'è già, la Commissione europea oggi non ha fatto altro che confermare che il 2012 vedrà Eurolandia, l'economia di Eurolandia arretrare dello 0,3%, così arretrano le banche, ma anche un titolo come la Fiat che perde il 4,5% appunto sui timori di un rallentamento dell'economia. Allora, andiamo avanti, Fiat meno 4,50%, qui insomma pesano anche le prospettive diffuse dall'Unione Europea di una recessione più forte in Europa, ne parliamo dopo il traffico. Due risposte invece velocissime agli ascoltatori. Sì, confermo, la flessibilità in cui tutti noi abbiamo creduto non ha migliorato l'occupazione dei giovani, questo è sotto gli occhi di tutti, anzi la crisi si è scaricata più sui giovani, 1 milione di posti di lavoro, e molto meno sugli adulti, che hanno visto anche aumentare il dato sull'occupazione. Poi volete che ci occupiamo della vicenda OMSA, che fabbrica calze, si trasferisce in Serbia con stipendi bassissimi dei lavoratori? Lo faremo, perché va bene delocalizzare, va bene internazionalizzare, ma insomma. GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Concludiamo allora l'approfondimento di borsa e poi passiamo al vaglio del decreto, del disegno di legge sulle liberalizzazioni, che incontra molti emendamenti, molti ostacoli, e ne parleremo soprattutto del caso di Snam Rete Gas con l'amministratore delegato di Snam Rete Gas. Comunque, ciao Condina, Fiat, abbiamo detto le prospettive di una recessione europea indeboliscono il titolo, meno 4,40%. Fondiaria SAI, dopo le notizie di ieri, che insomma sappiamo tutti che Sator e Palladio stanno sfidando Mediobanca e Unipol su Fondiaria SAI, con un piano alternativo che vede una ricapitalizzazione fino a 450 milioni di euro di Premafin, ma non la fusione con la controllata. E le due società, che hanno a questo punto l'8% di Fondiaria SAI, hanno presentato a Premafin un'offerta che scade l'8 marzo, impegno da 400 milioni per un aumento di capitale più altri 50 riservati agli azionisti di minoranza. I titoli oggi. I titoli oggi, Premafin immediatamente in apertura è balzata e diciamo ha vissuto una giornata più che altro in cui è stata più volte sospesa, andata in asta di volatilità, alla fine ha chiuso in rialzo del 36,4%, quindi un segnale chiaro da parte del mercato che l'offerta di Sator Palladio, insomma, per gli azionisti di Premafin è più interessante di quella che fino adesso era sul piatto, che era quella, insomma, quella di Unipol, della fusione tra Fondiaria SAI. Invece ha perso parecchio, il peggior titolo Fondiaria SAI, sì, è stata la peggiore del listino, ha perso il 13%, e la Milano, che diciamo è l'ultima società nella cascata di controllo dell'ex, ormai si può dire, impero dei Ligresti, ha perso il 10%, quindi sono qui la tesi degli operatori, che oggi il focus, gli acquisti sono spostati sulla holding, sulla controllante, mentre le altre società, che erano in predicato, si aspettava anche poi il verdetto della Consob di Unopa, sono scese molto, hanno perso il 13% e il 10%. Bene, invece oggi Campari più 1,20%, Luxottica più 1% e Finmeccanica, che aveva ceduto tanto ieri, più 0,6%. Anche gli energetici bene, Snam più 0,40%, Enel più 0,30%, e poi anche Tods più 0,50%. Sull'energia si è avuto anche una notizia per cui il prezzo del petrolio continua a salire a New York, l'abbiamo data in apertura. Grazie a Ceo Condina, Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso ci occupiamo di tutt'altro tema, nel senso che vorrei parlare delle difficoltà che sta incontrando anche il governo con il decreto sulle liberalizzazioni. Tra l'altro Monti ha chiarito in maniera molto netta che alcune modifiche alle riforme non verranno accolte. Abbiamo due obiettivi che guidano la nostra azione: che ci sia un bilanciamento nei sacrifici attraverso le diverse parti sociali ed economiche e che il livello dell'avanzamento verso la modernizzazione, quindi verso un'Italia più competitiva, sia un livello alto di avanzamento, perché il bilanciamento si potrebbe ottenere anche col quota non movere o con piccoli avanzamenti, ma è nostra responsabilità far prevalere l'interesse generale e quindi cercare di ottenere un bilanciamento nella partecipazione ai sacrifici, ma ad un livello che faccia veramente, che renda veramente il paese più competitivo. E questa responsabilità l'abbiamo verso la collettività, verso l'opinione pubblica. Ci saranno delle modifiche che possiamo accogliere, e non ogni modifica significa un arretramento, qualche modifica significa un miglioramento, e altre che non potremo accogliere e che non accoglieremo. E poi sempre il Presidente del Consiglio Monti ha detto: le liberalizzazioni liberano il potenziale della crescita. Sul testo originale del decreto adesso non c'è nulla di certo, perché poi deve essere votato. Ci sono una pioggia di emendamenti che potrebbero annacquarlo, a partire da quello sui taxi, quindi le licenze tornerebbero ai comuni e non più autorità di trasporti, e anche via, eliminata la extraterritorialità sulle farmacie, si vorrebbe ridurre il numero di nuove aperture, e le modifiche riguarderebbero anche i professionisti. E poi invece sulla separazione Eni, Snam, Rete Gas, il governo punta uno scorporo totale. Più incerti i tempi, ma parliamo proprio del gruppo Snam Rete Gas. E parliamo di Snam, che vuol dire Snam Rete Gas, ma anche Italgas, Stogit, quindi lo stoccaggio del gas, e GNL Italia. Parliamo non solo e non tanto per l'ormai noto, notissimo percorso di separazione da Eni che il governo vuole avviare e appunto ne sta discutendo in queste ore. Discute, insomma, e tra l'altro la nuova seduta riconvocata anche con la parte tecnica, quindi con la Commissione Industria del Senato, sul decreto legge liberalizzazioni, per che vede al suo interno, oltre a farmacie, taxi e quant'altro, anche appunto la separazione Eni-Snam. Ma oggi sul fronte Snam c'è un'altra notizia che riguarda un accordo sulla rete, sull'integrazione della rete gas a livello europeo. Snam, infatti, e Fluxys G, che è il colosso belga, hanno praticamente raggiunto un accordo per rilevare le partecipazioni detenute da Eni in Interconnector, società inglese, nel terminal Interconnector di Zeebrugge in Belgio e dell'operatore Uberator. Ora, detto così, sembra una cosa molto tecnica, in realtà questo va nella direzione del rafforzamento delle reti gas, rafforzamento che si rende necessario, diventa elemento di cronaca ogni volta che abbiamo poi crisi nel flussi di gas come quella che abbiamo registrato 3 settimane fa. Dottor Carlo Malacarne, amministratore delegato di Snam, e quindi della società che comprende appunto le altre società che citavo, Snam Rete Gas, Italgas, Stogit e GNL Italia, buonasera. Sì, buonasera. Allora, l'accordo visto così, anche i nomi non aiutano, diciamo, sembra molto tecnico. In realtà che cosa va a ottenere? L'Interconnector è un collegamento fra l'Europa continentale e l'Inghilterra che ha la capacità di trasferire dei flussi di 20 miliardi all'anno, bidirezionali, sia dall'Europa verso l'Inghilterra che l'Inghilterra verso l'Europa. Per cui è importante e è un elemento fondamentale per costruire una rete europea che connette Nord Europa al Sud Europa. Ecco, e questo permetterà poi per noi utenti finali e comunque per la sicurezza energetica del paese cosa? Oggi è un primo passo per costruire la rete europea. Quando la rete europea sarà costruita, il vantaggio è chiaramente la possibilità di uno scambio più fluido di gas fra l'Italia e il centro Europa. Questo vuol dire che c'è un beneficio sia per la sicurezza d'approvvigionamento, ma sia anche per una competizione sui prezzi. Voi avete stanziato, se non ricordo male, 1,5 miliardi di euro per la vostra espansione all'estero. Quanta parte di queste risorse, che sono ingenti, insomma, in questo periodo 1,5 miliardi di euro non si vede spesso, ma dico, quanta parte verrà assorbita dall'accordo con la belga Fluxys? Ma oggi con Fluxys, l'accordo con Fluxys è uno studio comune di progetti che si svilupperanno nei prossimi anni, per cui non abbiamo oggi valutato un investimento preciso, ma quello che è importante è che lavoreremo insieme a una società, questa Fluxys, che è il centro che sta gestendo l'hub del centro Europa, per cui è molto importante lavorare con loro per analizzare i progetti. Chiaramente il 1,5 miliardi che noi abbiamo a disposizione è 1,5 miliardi che sarà dedicato alla creazione di questo passaggio dal centro Europa all'Italia di nuove infrastrutture. Allora, veniamo invece a voi, nel senso che voi avete fate capo ad Eni, che tuttora controlla il 52% di Snam. Voi siete quotati nella Piazza Affari, come spesso ricordiamo, e capitalizzate intorno ai 13 miliardi, un po' di meno delle volte, 12 miliardi e 8, 32 mila chilometri di gasdotti, 8 campi di stoccaggio, trasportate ogni anno 83 miliardi di metri cubi di gas, e l'anno scorso avete chiuso con un fatturato che è cresciuto del 2,7%, gli utili in calo, se ho ben visto, se ben ricordo, soprattutto a causa anche della Robin Hood Tax, la tassa applicata ai gruppi energetici. Comunque gli utili, di tutto rispetto, perché quasi 1 miliardo di utili avete fatto, 978 milioni. Domanda, gli investimenti sulla rete, sullo stoccaggio, c'è stata molta polemica 3 settimane fa col grande freddo, perché si è detto non avevate stoccato abbastanza, mettiamolo nel senso un po' brutale e impreciso, ed è bastato un calo dell'approvvigionamento russo, viaggiavano al 73% all'80% per creare tensioni sul mercato e sull'approvvigionamento nazionale. Guardi, gli investimenti di stoccaggi sono stati investimenti di tutto rispetto. Oggi abbiamo 10 miliardi di capacità di stoccaggio, che è lo stoccaggio più grosso d'Europa. Nel 2009 avevamo 8,4 miliardi. Per cui dal 2009 al 2011 abbiamo investito per sviluppare circa 3 miliardi di nuova capacità. Il problema dell'emergenza era un problema di condizioni estreme in un periodo dell'anno in cui gli stoccaggi sono già stati in parte svuotati, per cui questo è, diciamo, il riscontro. Ma sicuramente la capacità di stoccaggio è idonea non solo per la sicurezza di approvvigionamento in Italia, ma anche con una maggior flessibilità di utilizzo. Allora, adesso c'è il traffico, poi torno alla carne, vorrei arrivare all'ultima questione, e quindi la riduzione della quota Eni, che, su cui il governo è stato molto chiaro, arriverà anche in tempi relativamente brevi. Vorrei capire cosa cambierà per voi. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con l'amministratore delegato di Snam Rete Gas. Prima di passare alla quota Eni, allo scorporo, diciamo, la riduzione della quota Eni che vuole il governo nella legge sulle liberalizzazioni, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sulla crisi del gas di 2 settimane fa. Insomma, dottor Malacarne, ma secondo lei siamo noi, giornalisti, media, ad aver esagerato la situazione? No, ma diciamo che chiaramente sempre quando c'è in discussione un'emergenza o una probabile emergenza, le notizie vengono sempre esagerate. Devo dire che il discorso degli stoccaggi era collegato anche a una riduzione delle importazioni dalla Russia, per cui voglio dire, la paura che queste importazioni rimanessero basse o diminuissero notevolmente hanno chiaramente spinto l'attenzione sugli stoccaggi. Però si è andati anche in alcuni momenti all'utilizzo dell'accordo con alcune imprese, quelle che possono avere staccato il rifornimento energetico, diciamo, sulla base poi del prezzo che pagano, per carità, tutto legale, ma voglio dire, si era già arrivati a una misura, non dico di emergenza, ma di difficoltà, o no? No, certo, è la prima misura che prevede l'accordo in caso di emergenza. La prima misura che prevede è l'interruzione di alcuni utenti che sono appunto chiamati interrompibili perché hanno un contratto che può essere interrotto, ma stiamo parlando di una percentuale minima, tutto sommato. Allora, beh, lei ci garantisce quindi che gli stoccaggi sono aumentati appunto dagli 8 miliardi del 2010, ho capito bene? Gli 8 miliardi e 4 del 2009, 2009. Ai 10 miliardi del 2011. E poi va considerato lo sviluppo di ulteriori 4 miliardi che abbiamo in piano al 2015, a fine 2014. Per curiosità, leggiamo sempre che questo gas viene tenuto in caverne, in sotterranee, ma com'è che non, cioè, com'è che viene sigillato? Ce lo chiedono spessissimo gli ascoltatori. No, ma sono pozzi, vecchi pozzi di gas che sono esauriti, per cui viene rimessa la pressione. Esatto, sono pozzi che chiaramente erano in pressione nel momento in cui fornivano gas, oggi esauriti, certo. Viene rimessa in pressione il gas e vengono utilizzati come serbatoio, proprio un utilizzo di un serbatoio. Naturale. Veniamo invece al tema più caldo, la vostra separazione effettiva, non formale, dal gruppo Eni, che chiaramente avendo il 52% è di fatto non solo l'azionista di maggioranza, questo lo capisce anche un bambino, ma è di fatto, insomma, il vostro quartiere generale, la vostra testa pensante. Allora, il governo vuole che, come è avvenuto nelle telecomunicazioni o anche nel settore dell'elettricità, pensiamo a Terna con Enel, anche nel caso del gas, la società che trasporta, cioè che ha i tubi, che ha i binari, che ha la rete, si direbbe in gergo, sia separata da chi poi su questa rete deve andare, che si tratti di vagoni, di gas o di petrolio, di telecomunicazione, di elettricità, poco cambia. E su questo anche ieri il sottosegretario allo sviluppo Claudio De Vincenti ha detto che la separazione Eni Snam e gas sarà totale, riguarderà anche gli stoccaggi, e questo è un riferimento alla direttiva dell'Unione Europea. Oggi il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni da Bruxelles, ha detto: noi non siamo contrari a diminuire la quota in Snam, ma questo non deve penalizzare gli azionisti Eni, gli azionisti Snam, e l'Eni dovrà essere più forte di prima alla fine e non più debole, perché ci muoviamo in un mondo di giganti. Allora, secondo lei, per una società come Snam sarà un vantaggio poter essere un soggetto a parte come Terna adesso, poniamo, e quindi a giocare con diversi clienti, cioè diverse persone che possono trasportare il gas sulla rete, o vi sentirete orfani di mamma Eni, del cane a sei zampe e insomma di tutto quello, dell'ombrello di protezione che esso rappresenta? No, guardi, mi faccia fare una premessa, perché il mamma Eni è una cosa che ogni tanto ricorre. Papà Eni, se vuole, così. No, ogni tanto ricorre, ma devo però ricordare che oggi a tutti gli effetti l'indipendenza gestionale della società è confermata anche dal fatto che abbiamo creato proprio una struttura indipendente sia come corporate governance che come gestione operativa, per cui è da anni che l'autorità regola il funzionamento di Snam, per cui non ci sentiamo assolutamente, pur avendo un azionista che è un azionista di maggioranza, non ci sentiamo minimamente influenzati nelle decisioni strategiche, no? Per questo è opportuno dirlo, perché sennò sembra che sia un distacco da un qualcosa che definisce le nostre strategie. Ecco, detto questo, devo dire che c'è un decreto in discussione, per cui attendiamo cosa stabilirà il decreto, sì in termini di quote, sì in termini di perimetro, perché oggi si parla di Snam e Snam è costituita da trasporto, stoccaggi, GNL e distribuzione, per cui oggi l'efficienza della società è l'insieme di questi business, per cui questo è importante dirlo. Questo decreto stabilirà una discesa di Eni, devo dire che la discesa di Eni 20%, 5% non cambia assolutamente quelle che sono le nostre strategie, per cui sarà definita dal decreto. La cosa che posso poi anche commentare è che sicuramente nella nostra strategia di espansione europea, strategia che l'azionista di maggioranza conosce benissimo, è chiaro che una discesa di Eni può comunque dare un impulso, favorire eventuali joint venture, eventuali sviluppi comuni con società europee. Però oggi che l'indipendenza della nostra società, che opera solo in Italia, è certa. No, io apprezzo questo, però anche lei riconosce che un conto è essere la Terna quando l'Enel aveva il controllo, e un conto è essere la Terna di adesso, chiedere a Cattaneo per conferme. Cioè, nel senso, hai maggiore possibilità di muoverti quando voi avrete l'Eni che scenderà sotto la quota di maggioranza assoluta, e magari se la separazione deve essere completa, non lo so, a una quota di una quota tutto sommato minoritaria, se non risibile, avrete maggiori margini di movimento, no? Ma anche, anche nei clienti, con i clienti, no? Ma no, guarda, come clienti nell'attività che oggi stiamo gestendo è un'attività che è completamente regolata, e lei ha fatto l'esempio di Terna, è molto differente, nel senso che non è difficilmente paragonabile l'attività. L'energia elettrica è prodotta e viene prodotta nei siti decisi, il gas viene trasportato da dove c'è, per cui certo, non è una produzione locale. Ecco, e su questo, per esempio, lei l'ipotesi di fare, come abbiamo visto anche negli ambienti del PD, Enrico Letta ci crede molto, una fusione Terna-SNAM, una volta che SNAM sarà, diciamo, svincolata dalla quota Eni, cioè mettere assieme le due grandi reti infrastrutturali dell'energia, elettricità e gas, la convince o no? Ma no, guardi, ma non mi convince proprio perché oltre a non esserci nessuna sinergia, non ha neanche un raziocinio industriale. Non esistono, diciamo, questo è verificabile, esempi di successo in un'azione di questo tipo a livello europeo. Quindi non esiste in natura, sarebbe un ibrido. Diciamo, natura. Per cui questo mi sta dicendo, vabbè, a meno che non sia a favore degli esperimenti. No, vedo che alcuni componenti della maggioranza che appoggia il governo sono su questo invece molto entusiasti. Comunque, grazie all'amministratore delegato di SNAM, dottor Carlo Malacarne. Poi vedremo anche quale sarà la formulazione definitiva, i tempi, che non sono indifferenti, non sono poca cosa in questo caso, e anche la quota che verrà lasciata ad Eni. Perché immaginiamo tutti che insomma non si possa prevedere un distacco così forte da un cordone umbilicale che lei nega, ma insomma che noi un po' vediamo. Grazie ancora al ministro delegato della SNAM. Grazie a lei. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.